Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E siamo qui allora alle 7 e 20 minuti, cari ascoltatori, per leggere i giornali. Vi ricordo che parleremo anche oggi di politica. Oggi per me è un po' un ultimo giorno, poi me ne vado in ferie per 10 giorni e ci risentiremo il 15 aprile, ma 24 mattino continua, ci sarà Gianfranco Fabi al mio posto. E che dire, che dire? Beh, avremo ospite intanto Ivan Scalfarotto, onorevole del Partito Democratico e vicepresidente del partito, e l'onorevole Beatrice Lorenzin del Popolo della Libertà. Oggi, questo dalle 8:15, parleremo anche di questa accelerazione data da Matteo Renzi, che oggi fa anche un'intervista al Corriere della Sera, che tra poco vedremo. Un Matteo Renzi che dice: stiamo perdendo tempo, o si fa l'accordo col PDL oppure si vada subito a votare. Ma andiamo appunto a sfogliare i giornali in edicola. È giovedì 4 aprile e che dire, i titoli di apertura sono di due tipi: la vicenda dei debiti della pubblica amministrazione e la politica. Anche oggi queste due scelte. I giornali, il Sole 24 Ore: debiti della pubblica amministrazione, slitta il decreto, La Stampa: rimborsi, rinviato il decreto. Il giornale la mette giù così: pagate cialtroni, il titolo di prima pagina. L'Unità: l'ultimo pasticcio tecnico, rinviato il decreto sui crediti delle imprese. E il Manifesto: impresa in giro. Il Secolo XIX: soldi alle imprese e rinvio. Il Fatto Quotidiano invece: tasse, figuraccia di Monti e regalo agli assicuratori. È una vicenda su un provvedimento che avrebbe allo studio il governo, di cui parla il Fatto Quotidiano per quel che riguarda le assicurazioni. Il Corriere della Sera: l'intervista a Renzi è in primo piano, intesa con Berlusconi o voto, ci vuole dignità, così dice il sindaco di Firenze. Repubblica: Renzi subito al voto, io sono pronto. Libero: Bersani gioca, Monti non paga e perfino Renzi non ne può più. Mentre il Messaggero mette: Renzi apre al governo con il PDL. E Avvenire apre su questo colpo della direzione antimafia: il maxi sequestro al re dell'eolico vicino alle cosche, 1,3 miliardi confiscati. Il titolo di prima pagina è: paga il crimine. Allora, intanto qualche notizia. La prima riguarda un convegno un po' misterioso di cui parlano, no, non misterioso perché sia misterioso il convegno, ma un escamotage di cui parlano sia il Corriere della Sera che il Fatto Quotidiano. Leggo dall'articolo di Sergio Rizzo sul Corriere a pagina 25: viaggio pagato grazie al convegno. È una vicenda che riguarda i giudici amministrativi, dunque del TAR del Consiglio di Stato, che devono andare a Roma per eleggere il 13 aprile prossimo il loro Consiglio Superiore della Magistratura, in pratica, no? E allora, notizia ferale, scrive Sergio Rizzo, quella arrivata a tutti i magistrati del TAR del Consiglio di Stato in una comunicazione del segretario generale della giustizia amministrativa Oberdan Forlenza. La notizia ferale era questa: per la notte del 13 aprile prossimo non è previsto il rimborso del pernottamento a Roma. E i giudici dovevano andare tutti a Roma a votare appunto le elezioni, i seggi aperti dalle 9 alle 11 per votare il nuovo consiglio di presidenza, l'equivalente del CSM. Al che i giudici amministrativi, molti protestano: ma come? Andiamo a Roma a votare, non è previsto neanche il rimborso, noi dobbiamo sobbarcarci delle trasferte, eccetera. E allora volevate che in una tale concentrazione di esperti, scrive Sergio Rizzo, esperti di procedure, norme, cavilli, non si riuscisse a risolvere un problema così banale? Ma certo, un convegno, ecco la soluzione, non un semplice convegno, sia chiaro, ma un convegno formativo. E dove sta la differenza? Che siccome la formazione fa parte dell'attività di un magistrato, la partecipazione a un incontro formativo è considerata lavoro. E dunque, ecco qui, in occasione delle votazioni dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza, è stato indetto l'incontro formativo dal titolo Trasparenza e privacy nell'amministrazione e nella giustizia amministrativa. Si rammenta che i magistrati potranno usufruire del trattamento di missione per raggiungere la sede dell'incontro nella giornata di sabato e partecipare poi alle votazioni previste la giornata successiva la domenica 14 aprile. Ecco qui l'escamotage, viaggio pagato grazie al convegno. Così è il caso sul Corriere della Sera, che anche sul Fatto Quotidiano viene messo come rivolta di casta. Quel weekend gratis per i magistrati del TAR, gli amministrativi in trasferta per eleggere il nuovo Consiglio di Presidenza protestano perché non avranno l'albergo rimborsato, ed eccolo qui, spunta il convegno formativo per dare il rimborso a tutti. Vabbè, notizie anche dalla Sicilia. Non lo so se a qualcuno può far suscitare qualche dubbio, ma quello che ha fatto il governatore della Sicilia Crocetta. Allora, c'era da sostituire l'assessore Franco Battiato, quello che si è dimesso, le troie in Parlamento, e sappiamo, insomma, quant'altro. Allora, chi ha scelto Crocetta ieri ha scelto la sua segretaria particolare, la portavoce. Una brillantissima ragazza con cui abbiamo avuto anche a fare anche noi quando abbiamo invitato il governatore Crocetta, Michela Stancheris, bergamasca, 31 anni. Ma certo, la stampa, come altri giornali, titolano così, un po' stupiti: Crocetta mette la segretaria al posto di Battiato. I più cattivi, scrive Laura Anello, per esempio a pagina 8 della stampa, citano Caligola, che voleva fare senatore il suo cavallo, pensando che se la sarebbe cavata comunque meglio dei colleghi d'assemblea. Certo che è stato un bel salto per Michela Stancheris, fino alle 3 del pomeriggio di ieri, segretaria particolare del governatore della regione siciliana, Rosario Crocetta, e un quarto d'ora dopo traghettata sulla poltrona di assessore al turismo al posto di Franco Battiato. Mi ha colto di sorpresa, dice lei, mi ha proposto di far l'assessore un quarto d'ora prima di annunciarlo in conferenza stampa. E così lei, 31 anni, bergamasca, laurea in relazioni pubbliche, appassionata di snowboard, ombra del governatore da quando era deputata europea a Strasburgo, ha appoggiato sulla scrivania l'agenda degli appuntamenti e ha indossato i nuovi panni. E così, da segretaria ad assessore al turismo, segretaria particolare, portavoce, insomma davvero l'ombra del governatore Crocetta, a assessore che sostituisce Franco Battiato. Così un po' sui vari giornali c'è questa notizia. Se volete invece arrabbiarvi un pochettino, o se non volete arrabbiarvi, leggete gli stipendi medi dei dipendenti di Camera e Senato. È da 3 giorni che lo diciamo, il giornale li mette con Paolo Bracalini a pagina 10, l'altra faccia della casta in Parlamento, usceri da 10.000 euro al mese. Attenzione, hanno la quindicesima, che tra l'altro io me lo chiedo da ieri, in quale mese percepiranno la quindicesima? Perché la tredicesima, cos'è, a dicembre, la quattordicesima ad agosto, più o meno a luglio, la quindicesima. In che mese viene erogata ai dipendenti di Camera e Senato? La quindicesima, non so, a Pasqua? A Capodanno? No, è troppo vicino alla tredicesima. D'ottobre, quando cadono le foglie, d'aprile dolce dormire, non lo so, comunque ci sarà un mese in cui prenderanno anche la quindicesima. Quanto prendono? Per esempio un barbiere, stipendio lordo, primo stipendio della Camera, 2.338 euro. Poi ci sono aumenti, linee che sono rette verso l'alto, cioè nel senso ci sono carriere che portano a un aumento di fine carriera a più 400% rispetto allo stipendio di quando si è entrati 40 anni prima. Racconta il giornale che, per esempio, il caso forse più emblematico, Antonio Malaschini, quando lasciò il posto da segretario generale del Senato, uno dei ruoli più importanti, ha preso un TFR da 1.200.000 euro e attualmente una pensione da 520.000 euro l'anno. Segretario generale del Senato, ma certo sono anche altri dipendenti, quelli che fanno forse più scalpore, scrive il giornale, come gli usceri, che arrivano a guadagnare 10.477 euro lordi mensili alla fine della carriera. Usciere, cioè quello che sta lì, prego di qua, prego di là, l'aula di su, il bagno di giù. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Vabbè, le 7:34 minuti. Allora, la politica, che è nello stallo più totale da giorni, ieri ha vissuto, ed è la giornata ed è la notizia del giorno per molte aperture, per molti quotidiani, vabbè, ce la farò anche a mettermi d'accordo con le parole, e la vicenda di Matteo Renzi. Oh, tra l'altro, apro parentesi per tornare alle notizie di prima, c'è chi mi dice che mi sono dimenticato di tenere le mani strette sul volante quando do certe notizie, tipo gli stipendi dei dipendenti della Camera. Un ascoltatore addirittura mi dice che a volte ha stretto troppo e gli è esploso il bombolone alla crema. Vabbè, quindi mani sul bombolone ma delicate, perché se no rischiate veramente di innaffiarvi a fare colazione. Comunque, Matteo Renzi ieri ha parlato e ha detto la politica sta perdendo tempo. È effettivamente la sensazione che hanno molti italiani, però certo viene subito accusato di essere in qualche modo il Pierino la peste della politica. C'è la Costituzione, ci sono i suoi tempi, ci sono le sue liturgie anche, però da rispettare, non è che si può prendere e fare quello che si vuole. In ogni caso, se il messaggio non si è capito, oggi Matteo Renzi fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Aldo Cazzullo. L'intervista la trovate a pagina 9, è un'intervista che farà parlare perché è molto molto dura. Il titolo già: Bersani si è fatto umiliare da quegli arroganti del Movimento 5 Stelle, ora patto con il PDL o urne. Renzi dice così: pensiamo cosa è successo dal 25 febbraio a oggi nel mondo. In Vaticano c'era ancora Ratzinger, in un mese è stata scritta una pagina di storia, il pianeta corre e l'Italia è totalmente ferma, le aziende chiudono, la disoccupazione aumenta, la politica perde tempo. La tempistica prevista dalla Costituzione va rispettata, ma qui si fa melina. Si rinvia tutto alla scelta di un Presidente della Repubblica più sensibile a dare l'incarico a Tizio o a Caio, ma questo aumenta l'antipolitica. La vera moralità non è solo tagliare i costi, ma è rendere efficiente quel che fai. Matteo Renzi, quindi cosa dovrebbe fare il PD? Il PD deve decidere, dice Renzi, o Berlusconi è il capo degli impresentabili, allora chiediamo di andare a votare subito, oppure Berlusconi è un interlocutore perché ha preso 10 milioni di voti. Non è possibile che il noto giurista Migliavacca un giorno proponga ai grillini di votare insieme la richiesta di arresto per Berlusconi, che tra l'altro non è neanche arrivata, e il giorno dopo offra al PDL la presidenza della convenzione per riscrivere la carta costituzionale. Io ho tutto l'interesse a votare subito, ma l'importante è decidersi, non si può stare così in mezzo al guado. E ancora Renzi che insiste, mi dicono tutti stai buono Matteo, non fare interviste, stai zitto, tanto la prossima volta tocca a te. Ma io non ragiono in questo modo, non voglio stare buono con così, con qualcosa che mi tocca. Non voglio essere cooptato da altri, non voglio essere l'ultimo di quelli che c'erano prima, semmai vorrei essere il primo di una fase nuova. Insomma, un Renzi che dice bisogna fare l'accordo con il PDL oppure si vada a votare subito. Anziché vivacchiare, rendiamo utile questo tempo. Bersani riunisca fin dalla prossima settimana i gruppi parlamentari. Ancora su Bersani, alla domanda specifica sulla riunione in streaming con quelli del Movimento 5 Stelle, Renzi dice: mi veniva da dire Pierluigi, sei il leader, non farti umiliare così. Ho pensato a cosa doveva provare una volontaria che fa fare i tortellini alla festa dell'unità. Credo ci sia rimasta male nel vedere il suo leader trattato così alla ricerca di un accordicchio politico. Insomma, parla di un Bersani umiliato. E sui saggi, ma cosa ci possono dire di nuovo Violante e Quagliariello? Non sono certo la soluzione, al più possono essere concausa della crisi. Insomma, un Renzi che bastona a destra e a manca su questa politica che sta perdendo tempo, ce l'ha anche con le critiche di chi gli dice: sei andato da Maria De Filippi vestito come Fonzi col chiodo. Risponde lui: chi mi rimprovera di aver scelto un abbigliamento alla Fonzi si sente un po' Ralph Malf. Vi ricordate lo sfigato della serie? Vabbè, insomma, questo Matteo Renzi che dunque dice basta vivacchiare, dobbiamo avere le idee chiare, o accordo con Berlusconi o alle urne, tanto che subito partono i retroscena. Allora Stefano Fassina del Partito Democratico su Repubblica risponde a Renzi dicendo così: così insulta il Colle, non stiamo perdendo tempo, Pierluigi Bersani non tergiversa, mentre Renzi offende il Colle, così Stefano Fassina. Un retroscena dell'Unità con Bersani che si chiede: Matteo, che gioco fa? E invece il retroscena di Repubblica di Goffredo De Marchis è ancora più duro. Il leader si sente in trincea, ormai è nata una corrente, la corrente dei renziani, ma creano soltanto problemi. Addirittura sono stati definiti con una frecciata dei sabotatori, così da Bersani, e questo almeno in un retroscena di Repubblica. Basta mettere in fila le mosse degli ultimi giorni, avrebbe detto Bersani. Renzi vuol creare problemi e i suoi si muovono come una corrente. Questo dicono i dirigenti del Partito Democratico, e che ribadiscono: qui la grossa coalizione non si può fare come in Germania, perché qui c'è Berlusconi. Tra l'altro molti leggono come una provocazione anche la proposta che alcuni senatori democratici hanno di stretta corrente renziana hanno proposto ieri al Senato, un disegno di legge per cancellare totalmente il finanziamento pubblico ai partiti. La proposta antirimborsi ai partiti fa litigare i democratici. La mossa del sindaco di Firenze, così titola Monica il Corriere della Sera con l'articolo di Monica Guerzoni a pagina 8, beh certo, questa mossa, presentare un disegno di legge per abolire il finanziamento ai partiti come chiede Renzi. E infatti il tesoriere del PD Antonio Misiani, intervistato dall'Unità, dice a pagina 4: niente rimborsi, è una proposta legittima, ma quella proposta depositata da un gruppo di senatori riflette una posizione di cui si dovrà parlare, ma non è la posizione del Partito Democratico. Dai renziani un contributo al dibattito, ma vanno tenuti fermi alcuni principi: la politica non deve diventare un fatto per miliardari. Così Antonio Misiani, insomma, prende le distanze da questa proposta che viene da alcuni senatori dello stesso partito marenziani. È partita la, o è tornata la disfida all'interno del Partito Democratico tra Renzi, che scalpita e dice fate presto, e invece i bersaniani. E Berlusconi? Beh, Berlusconi per il momento sta in silenzio. Secondo Repubblica avrebbe individuato la persona da mettere al Quirinale, il nome da mettere al Quirinale. Oh, io un mese fa sul mio profilo Twitter, Alino Milan, l'avevo detta come battuta: trovato Berlusconi, trovato, vuole mettere uno dei suoi al Quirinale, mettiamo D'Alema. Io l'ho detta ovviamente come provocazione, battuta. Oh, Berlusconi pensa a Massimo D'Alema. E così su Repubblica oggi: ora Berlusconi propone D'Alema al Colle. È meglio di Prodi e il suo nome divide il Partito Democratico. Così nell'articolo di Carmelo Lo Papa a pagina 4, quindi oggi lo posso dire non più come battuta: Berlusconi ha trovato finalmente uno dei suoi per il Quirinale, Massimo D'Alema. È il colpo di coda, scrive Repubblica, per uscire dall'angolo, per scuotere la palude nella quale si ritrova 40 giorni dal voto alla vigilia delle elezioni per il Colle. Silvio Berlusconi ha deciso a sostenere e sponsorizzare la candidatura di Massimo D'Alema per la successione di Giorgio Napolitano. Questo sarebbe il ragionamento di Berlusconi secondo Repubblica: se faccio quel nome getto il Partito Democratico nello scompiglio. Da Massimo mi sento più garantito che non da Prodi o da altri nomi che vorrebbero imporci. Questa è la strategia da piano B che Berlusconi ha illustrato ad Arcore, alla cerchia più ristretta dei suoi collaboratori. Ma poi vabbè, il Totonomi per il Quirinale prevede, vabbè, i soliti: Marini, Amato, Bonino, Barbara Spinelli entrata prepotentemente, oltre a Gino Strada, poi chi c'è anche? Riccardo Muti, beh insomma il maestro Riccardo Muti, e poi i soliti Pierluigi Castagnetti, oggi ci ha detto Massimo D'Inolfi, ognuno, Mario D'Inolfi, ognuno ce n'ha una, ognuno dice la propria, e va bene così, insomma. Il Totonomi, anche questo è un gioco tra virgolette per la successione di Napolitano. C'è Subbuglio invece, almeno a leggere i giornali, e sempre che non siano scritti gli articoli da dei prezzolati, nel Movimento 5 Stelle. E nel Movimento 5 Stelle c'è Subbuglio, questo scrivono tutti i giornali, quindi più o meno hanno dei prezzolati un po' più o meno distribuiti tra le varie testate giornalistiche, oppure qualcosa di verità ci sarà. Grillo chiude all'intesa col PD, Grillo che ieri ha detto ancora una volta: chi vuole l'intesa, chi ha votato il Movimento 5 Stelle pensando a una qualche intesa con i partiti ha sbagliato, la prossima volta voti un partito direttamente. Con questo post sta creando però un po' di subbuglio che tutti i giornali scrivono comincia a emergere all'interno del movimento. Per esempio Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 9, accordo in nome della legalità, c'è una fronda tra i 5 Stelle, si parla di un'ipotesi di fronda, una fronda della legalità, o meglio una fronda in nome della legalità. Ieri c'è stata anche una contestazione da alcuni del Movimento 5 Stelle che sono usciti e fuori a Montecitorio, alcune persone dicevano ma insomma dovete allearvi con il Partito Democratico. Ebbene Repubblica parla di 30, un malessere trasversale che raccoglierebbe soprattutto senatori, deputati meridionali del Movimento 5 Stelle che vorrebbero spezzare l'inossidabile fronte del no a qualunque governo, si parla di una trentina di deputati pronti in qualche modo ad appoggiare il Partito Democratico e gettando un po' di scompiglio all'interno del partito. Ci sono anche alcuni nomi che cominciano a prendere le distanze un po' da questi diktat dall'alto, per esempio Andrea Malaguti sulla Stampa intervista al deputato siciliano Tommaso Currò del Movimento 5 Stelle che dice io vado a Firenze da Grillo, mi rifiuto, non ha senso, non mi ribello certo, ma è surreale che 163 persone si muovano per andare incontro a una sola persona, venga lui da noi, qui in Parlamento saremo felici di confrontarci. Beh, il capo politico del movimento però è lui, ma in Parlamento ci siamo noi e questo luogo va rispettato, dice l'onorevole Currò. Non siamo automi, se Beppe vuole parlarci venga qui. Insomma, questo è già considerato un piccolo fronte di protesta, così come viene intervistata da Repubblica un'altra onorevole, l'imolese Mara Mucci, che qualcuno aveva dato in lacrime dopo un'assemblea del Movimento 5 Stelle 2 giorni fa. Lei intervistata da Caterina Giusberti dice no, non ho pianto, non ha pianto nessuno, ma certo il paese si chiede e ci chiede una svolta e quindi una proposta di governo ci vuole. Ecco, questa è l'onorevole Mara Mucci del Movimento 5 Stelle intervistata da Repubblica pagina 8. Insomma, comincia qualche giornalista fa notare qualche crepa all'interno della solidità del no a tutto nel Movimento 5 Stelle. In tutto questo stallo della politica, che succede? L'economia? Beh, la supercazzolona del decreto per ora slittato per pagare i debiti a pubblica amministrazione. Beh, il titolo più duro sul tema è del Giornale oggi, che titola così: pagate cialtroni. Io l'ho anche fotografato e messo sul mio profilo Twitter, se volete andarvelo a vedere graficamente, se no compratevi il giornale ovviamente direttamente. E, che dire, questa vicenda del decreto che doveva essere approvato ieri, poi il Consiglio dei Ministri è slittato, forse a lunedì. Ieri, racconta Dino Pesole sul Sole 24 Ore, c'è stata una lunga telefonata, circa un'ora, secondo fonti di Bruxelles, per chiarire aspetti e compatibilità finanziarie dell'operazione. La telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Monti e il commissario agli affari economici Olli Rehn per assicurare in primo luogo che anche con lo sblocco di 40 miliardi di crediti commerciali delle amministrazioni pubbliche sarà rispettato il limite massimo del 3% nel rapporto deficit-PIL, come chiedono i patti dell'Europa. Rassicurazione richiesta da Bruxelles, ritenuta fondamentale per chiudere in maggio la procedura per disavanzo eccessivo aperta nel 2011 nei confronti del nostro paese. Si parla di divergenze, anzi leggerete queste parole strane, diverse sensibilità tra il ministro Grilli e il ministro Passera, tradotto per tutti come si suol dire se stanno a scannà. Comunque il decreto è saltato per il momento, Si parla di un'approvazione entro lunedì. I nodi li trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore. I nodi investimenti e iter tortuoso. Carmine Fotina racconta come l'ipotesi di anticipare l'aumento regionale dell'addizionale IRPEF è solo un aspetto del problema che pare definitivamente accantonato, ma qui si naviga a vista, perché voglio dire, ieri doveva esserci un decreto e non c'è, quindi. La lista comunque delle criticità stilata dalle associazioni imprenditoriali è lunghissima, così come articolato dai tecnici dell'economia, il piano sblocca debiti proprio non funziona. E allora ieri ecco una nuova telefonata, tra il ministro sviluppo economico Passera, che ha trovato una buona sponda per mediare con gli uffici di Grilli. Non c'è stato nessuno scontro tra i due ministri, sottolineano gli staff, ma è certo che si è arrivati a un armistizio per riscrivere buona parte delle misure contestate dalle imprese. Intanto, come al solito, fate con calma. Scrive sempre il giornale, dopo l'appello anche del presidente di Confindustria Squinzi, che racconta ancora il Sole 24 Ore, dice: le aziende ormai sono disperate, perché ricordiamolo, sono soldi che si stanno sbloccando per decreto, ma soldi che dovrebbero arrivare naturalmente, uno fa un lavoro, fattura e dovrebbe ricevere dei soldi, invece qui stiamo a discutere di un decreto per sbloccare parte di questi soldi, 91 miliardi che dovrebbero arrivare. Ebbene, fate con calma, tanto che una deputata del Popolo della Libertà, racconta il giornale a pagina 4, intervistata da Fabrizio Boschi, si tratta dell'onorevole Monica Faenzi, dice: propongo subito un fondo anti-suicidi per le aziende, un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico per aiutare tutte le aziende in difficoltà. Avevamo pensato a una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, ma nella nuova versione che ho ripresentato in questi giorni l'abbiamo portata a 70 milioni di euro. Un fondo a favore di tantissimi piccoli imprenditori e commercianti che ormai quotidianamente, dopo essersi vista negata l'approvazione di una pratica di finanziamento anche di piccoli importi, cadono nella disperazione che spesso determina gesti tragici come il suicidio. Sì, c'è da dire che anche qui fondo di 70 milioni... ma vai a trovarli, non lo so, sono proposte che, per carità, poi come si trovano questi soldi, chi lo sa. A proposito di provvedimenti, il Fatto Quotidiano oggi mette in prima pagina una notizia, c'è solo sul Fatto Quotidiano, quelle notizie vengono messe così, a quanto risulta al Fatto Quotidiano, e riguarda un provvedimento che sarebbe allo studio del governo e che scrive il Fatto a pagina 3 con Marco Palombi. Il governo starebbe approntando per uno degli ultimi atti prima della fine dell'esecutivo, un decreto, un atto amministrativo che porterebbe a dimezzare i risarcimenti alle vittime degli incidenti. Ecco perché viene posto come un provvedimento che è a favore, una sorta di regalo alle assicurazioni. L'allarme è lanciato a pagina 3, assicurazioni, Monti prepara il colpo grosso, è pronto un provvedimento che dimezza i risarcimenti alle vittime degli incidenti anche per i casi più gravi. Denuncia per esempio l'associazione delle vittime della strada: oggi un giovane di 35 anni che subisce un danno biologico del 50% a seguito di un incidente è risarcito fino a un massimo di 454.000 euro, compresa la personalizzazione. Con le nuove tabelle, se si approvasse questo decreto, tali valori rischiano di dimezzarsi. Questo l'allarme lanciato dal Fatto Quotidiano. Sarà così, chi lo sa. Ho qualche notizia di cronaca da darvi. Beh, intanto ancora la politica. Oh, visto che non l'ho detto prima, mani sul volante bene adesso, strette, e tazzine del caffè appoggiate un attimo sul tavolo, bomboloni alla crema anche. In Calabria arrivano le nuove inchieste, sempre la solita vicenda, soldi nostri, spese loro, elenco delle spese contestate da alcuni consiglieri della Calabria, sono 10 indagati, i nomi per il momento non ci sono, lotterie, gratta e vinci, lap dance, iPad, iPhone, ricariche del telefono, bollette della TARSU pagate con soldi pubblici, detersivi, tagliando dell'auto, pieni di carburante... un elenco sterminato, insomma, di queste cose. Repubblica, lotterie e lap dance rimborsate ai consiglieri, anche per Libero. Cuccagna in Calabria, i consiglieri si facevano rimborsare pure i gratta e vinci. E tutti ovviamente ieri a chiedermi: ma se avessero vinto 1 milione di euro con questo gratta e vinci, avrebbero quantomeno condiviso parte della vincita? Col cavolo! Questo immagino che potrebbe essere la risposta. Sempre di cronaca, tra la cronaca, il gossip, se ce lo consente il Vaticano, ma la notizia che è stata lanciata dal vaticanista, un vaticanista molto apprezzato, Sandro Magister, e viene ripresa oggi da Libero, è questa: stai a vedere che anche Papa Francesco ha mentito su un dottorato preso o non preso in Germania. Sarebbe davvero, cadrebbe l'ultima barriera, il mistero del dottorato ancora da terminare. E stiamo parlando del Papa, Giordano Tedoldi su Libero a pagina 14, dal Papa teologo al Papa fuori corso, almeno per quanto riguarda il dottorato in teologia. Il mistero è svelato da Sandro Magister, vaticanista dell'Espresso. Perché? Perché dice non ha mai portato a termine il dottorato in teologia su Romano Guardini. Il fatto è confermato dal collegio accademico dell'Alta Scuola Filosofico-Teologica di San Georgen a Francoforte. Il problema è che sul sito del Vaticano c'è una biografia nella quale c'è scritto: nel marzo 1986 il Papa Bergoglio va in Germania per ultimare la tesi dottorale. Ora, la frase è ambigua. Perché si può andare in Germania per ultimare la tesi e poi non ultimarla? Ma così come è scritta sembra proprio accreditare l'idea che la dissertazione sul Guardini sia stata completata e che Bergoglio abbia conseguito un dottorato in teologia che invece non ha. Vabbè, ci fermiamo qui perché la cosa si fa sempre più intricata. Insomma, il Papa ha conseguito questo dottorato oppure no? Papa Francesco, per favore, almeno tu. Insomma, se crolla anche il mito del Papa, no.